Perciò è doveroso sopprimere la golosità, assumendo solo il cibo necessario e in quantità modesta. Se poi qualcuno degli infedeli ci invita da lui e noi decidiamo di andare, ma sarebbe meglio non mescolarsi con chi è fuori dall'ordine, allora dobbiamo, secondo l'esortazione dell'Apostolo, mangiare qualsiasi cosa ci venga offerta, senza sollevare problemi per motivi di coscienza. Egli infatti ci ingiunge anche di comprare al mercato ogni tipo di cibo senza farci problemi. Del resto non bisogna astenersi completamente dal variare gli alimenti. L'importante è che non ci affanniamo per questo. Bisogna prendere ciò che ci viene messo dinanzi come si addice a cristiani e onorare in tal modo colui che ci ha invitati, dando una compagnia non dannosa e non stucchevole. Ci sia indifferente la ricchezza delle portate e ci siano spregevoli quei cibi che in breve tempo non esisteranno più. Chi mangia non disprezzi chi non mangia e chi non mangia non giudichi chi mangia, dice l'Apostolo. E poco più sotto spiega il motivo di questa sua raccomandazione. Chi mangia, mangia per il Signore e ringrazia Dio. Chi non mangia, non mangia per il Signore e ringrazia Dio. Perciò un'alimentazione giusta è un rendimento di grazie e chi sempre ringrazia non si affanna per i piaceri. Se poi vogliamo anche incitare alla virtù alcuni di quelli che mangiano con noi, allora a maggior ragione dobbiamo astenerci da questi cibi ghiotti, presentando noi stessi come chiaro esempio di virtù, allo stesso modo in cui anche noi abbiamo Cristo come nostro modello. Se infatti uno di questi cibi scandalizza il mio fratello, non ne mangerò, dice, e questo per sempre, al fine di non scandalizzare il mio fratello. E così, con poco sacrificio, guadagno a Cristo un uomo. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Abbiamo infatti conosciuto la verità e sappiamo che gli idoli nel mondo non sono nulla e che uno solo veramente è, l'unico nostro Dio, da cui tutto deriva e l'unico Signore Gesù. Tuttavia, aggiunge, a causa di questa tua conoscenza vai in rovina il tuo fratello più debole, uno per il quale Cristo è morto. Perciò coloro che feriscono la coscienza dei fratelli più deboli peccano contro Cristo. Così dunque l'Apostolo, sollecito nei nostri confronti, dà la sua sentenza riguardo ai banchetti e ci dice di non mescolarci ad essi. Se uno che viene chiamato fratello sia trovato ad essere fornicatore, adultero o idolatra, con costui non bisogna neppure mangiare insieme. Vieta sia di parlare che di mangiare con lui, avendo presente la contaminazione che ne deriverebbe, come pure il fatto che si tratta della mensa dei demoni. È bene non mangiare carne e non bere vino. Lo sostengono sia Pitagora stesso che i suoi seguaci. Questo si riferisce specialmente alla cacciagione, il cui odore più denso oscura l'anima. Ma se qualcuno ne mangia, non pecca, purché ne prenda con moderazione, senza attaccarsi, senza dipenderne e senza gettarsi sul piatto con ingordigia. Risuonerà infatti alle sue orecchie la frase: non rovinare l'opera di Dio per un po' di cibo. È follia infatti che, dopo aver gustato le delizie del Logos, ci si metta ad ammirare e a contemplare i cibi offerti in volgari banchetti. Ed è ancora più folle il fatto che i nostri occhi diventino schiavi delle portate. Con queste infatti i servitori portano in giro, per così dire, insieme ai piatti, la nostra stessa intemperanza. È forse opportuno rizzarsi sui triclini, immergendo quasi il viso nei piatti, sporgendosi dal divano come da un nido, in modo da poter cogliere con il respiro, come si usa dire, il profumo che sale volteggiando? Non è forse irragionevole imbrattare le mani negli intingoli e tenderle continuamente verso il cibo, non come chi vuole gustare, ma come chi arraffa senza moderazione e senza contegno? Si può osservare che gente del genere assomiglia più ai porci o ai cani per la loro voracità che agli uomini. Si affannano a saziarsi, si riempiono tutte e due le guance di cibo, mentre le vene intorno al viso si gonfiano. si bagnano di sudore, sono travolti dall'insaziabilità, ansimano per l'incontinenza, spingono giù nel ventre il cibo con una fretta incurante di tutti i convitati, come se dovessero prendere alimenti non per digerirli, ma per avere un rifornimento per un viaggio. La mancanza di misura, invero, è sempre un male, ma è particolarmente biasimevole quando concerne il cibo. L'ingordigia, opsofagia, è la mancanza di misura nell'uso del cibo, opson. La golosità, laimargia, è la pazzia della gola, laimos. La ghiottoneria, gastrimargia, è l'incontinenza nel mangiare, come dice anche il suo nome, una pazzia del ventre, gaster. Infatti, margos significa pazzo. Rimproverando coloro che si dedicano ai banchetti, l'Apostolo dice: quando si mangia insieme, ciascuno fa dapprima cena per conto suo, e così, mentre l'uno ha fame, l'altro è già ubriaco. Non avete forse delle case per mangiare e per bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e volete fare oltraggio a chi non ha? Presso gli abbienti, coloro che mangiano senza ritegno e senza mai saziarsi, fanno oltraggio a se stessi. Entrambi agiscono male, gli uni perché opprimono i poveri, gli altri perché mettono a nudo la loro propria intemperanza agli occhi degli abbienti. Dopo aver dunque rampognato come era necessario coloro che non hanno pudore e abusano continuamente dei banchetti, mai sazi e mai contenti, l'Apostolo alza una seconda volta la voce in tono di riprensione. Pertanto, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri, e se qualcuno ha fame, mangi a casa sua, affinché non vi riuniate per la vostra condanna. Bisogna dunque astenersi da ogni volgarità e intemperanza, prendere con educazione i cibi che ci vengono posti dinanzi, mantenere le mani, il triclinio e la barba puliti, conservare il volto dignitoso e non deformarlo, senza scomporsi neppure quando si beve, e tendere la mano alle portate ordinatamente e a tempo debito. Bisogna anche guardarsi dal parlare mentre si mangia. La voce, infatti, ne risulterebbe sgradevole e indistinta, essendo soffocata in una bocca tutta piena, e la lingua, schiacciata dal cibo e quindi impedita nella sua naturale funzione, emetterebbe suoni impastati. Non bisogna neanche mangiare e bere contemporaneamente, è infatti espressione della più grande intemperanza mischiare questi due momenti che sono distinti. Sia che mangiate, dice l'Apostolo, e sia che beviate, fate tutto a gloria di Dio, avendo per scopo la vera semplicità, della quale mi pare che il Signore abbia voluto dare un segno quando benedisse i pani e i pesci arrostiti, invitò i suoi discepoli a mangiarne, dando così un esempio di cibo non ricercato. Giusta misura e sobrietà nel cibo. Anche quel pesce che Pietro prese per ordine del Signore rappresenta un nutrimento facile da ottenere, donato da Dio e parco. Come fu estratta la moneta dalla bocca del pesce, così egli esorta ad estirpare la dissipatezza e l'amore del denaro da coloro che, presi all'amo della giustizia, risalgono dalle acque del battesimo. Così verrà eliminata la vanagloria e pagato lo statere agli esattori e dato a Cesare quel che è di Cesare, verrà conservato a Dio quel che è di Dio. Questo statere potrebbe significare anche altre cose che non ci sono ignote, ma non è questa la sede adatta per dilungarci su ciò. Basti qui l'averne fatto menzione. Noi infatti utilizziamo per il nostro tema i diversi fiori del Logos che non siano dissonanti da ciò che trattiamo. E questo abbiamo già fatto molte volte, portando su un argomento più urgente la fonte dai molti benefici, per irrigare ciò che il Logos ha piantato. Se in vero mi è lecito prender parte a tutto, non tutto conviene. Infatti, chi fa tutto ciò che è lecito, presto scivola a fare ciò che non è lecito. E come la giustizia non si realizza tramite la cupidigia, né la moderazione tramite la dissolutezza, così anche l'intera vita del cristiano non si modella sulla ricerca del piacere, giacché la mensa della verità è assai lontana dai pasti lascivi. Se infatti è principalmente in funzione dell'uomo che tutto è stato creato, non per questo è bene usare di tutto né usarne sempre. Per discernere ciò che è utile, non poco peso ha su colui che è educato dal pedagogo la ponderazione del momento giusto, del tempo, del modo e del fine, e in tal modo la considerazione di ciò che è conveniente esercita grande forza nell'abbattere una vita fondata sul ventre. E la ricchezza senz'altro ci spinge a una tale vita, poiché essa non ha lo sguardo acuto, ma è quella sovrabbondanza superflua accecata di fronte alla frenesia della gola. In realtà nessuno è povero per quel che riguarda le cose necessarie, e nessun uomo è trascurato da Dio. È Lui solo, infatti, Dio, che nutre gli uccelli, i pesci e, in una parola, tutti gli animali irrazionali. Ad essi, che pur non si danno pensiero del cibo, nulla manca. Ora noi abbiamo un rango superiore a loro, e tanto più, perché siamo loro signori, siamo più vicini a Dio e più saggi. Siamo venuti all'esistenza non per mangiare e per bere, ma per essere destinati alla conoscenza di Dio. Il giusto, sta scritto, mangia e la sua anima si sazia, mentre il ventre degli empi è insoddisfatto, essendo sempre teso a una voracità che non trova riposo. L'abbondanza del cibo è utile se non è per il proprio godimento personale, ma per farne parte agli altri. Bisogna perciò evitare quei cibi che, seducendo l'appetito, ci inducono a mangiare anche quando non abbiamo fame. Forse che non vi è una sana varietà di alimenti anche in una saggia semplicità. Abbiamo, ad esempio, le cipolle, le olive, alcuni ortaggi, il latte, il formaggio, la frutta e ogni genere di vivande senza condimenti di salse. E se c'è bisogno anche di carne arrostita o lessa, la si offra a chi ne vuole, disse il Signore ai Suoi discepoli dopo la resurrezione. Avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi, poiché Egli aveva loro insegnato a praticare la semplicità, gli diedero un pezzo di pesce arrostito, ne mangiò dinanzi a loro e disse loro, con le parole che seguono riportate da Luca. Inoltre bisogna che coloro che pranzano secondo il Logos non siano lasciati privi neppure di dolci e di miele. Invero, i cibi che non hanno necessità di essere cotti al fuoco sono i più idonei, essendo quasi già pronti. In secondo luogo vengono quelli semplici e senza ricercatezza, come abbiamo detto sopra. Quanto a coloro che si curvano sui tavoli, gonfi di alimenti e allattano così le loro passioni, ebbene, il loro maestro è un demone voracissimo, che io non avrei timore di chiamare demone del ventre, il peggiore e più esiziale dei demoni. Esso è senz'altro affine a quello detto ventriloquo, ma certamente è meglio essere felici, eudaimon, che avere un demone, daimon, per coinquilino. Ora, la felicità si può trovare se si pratica la virtù. L'apostolo Matteo si nutriva di semi, di frutta secca e di ortaggi, e non mangiava carne. Giovanni, poi, spingendo agli estremi l'ascesi, mangiava locuste e miele selvatico. Anche Pietro si asteneva dalla carne di porco, ma fu rapito in estasi, come sta scritto negli Atti degli Apostoli, e vide il cielo aperto e un telo legato ai quattro angoli al di sopra della terra. In esso erano tutti i quadrupedi, i rettili della terra e i volatili del cielo. E una voce gli disse, «Alzati, sacrifica e mangia». Ma Pietro disse, «Non sia mai, Signore, io non ho mai mangiato alcunché di profano e impuro». Ma la voce gli si rivolse una seconda volta, «Ciò che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano». Perciò per noi non vi è differenza nell'uso di questi diversi alimenti. Infatti non è ciò che entra nella bocca che profana l'uomo, bensì la vana opinione che ci siamo fatti dell'intemperanza. Quando Dio creò l'uomo, disse «Tutto vi servirà di nutrimento. Ortaggi con amore, agape, piuttosto che un vitello con inganno». Questo ci richiama bene alla memoria il discorso che abbiamo fatto prima, e cioè che non sono gli ortaggi che costituiscono l'agape, ma è con la carità, agape, che bisogna prendere i pasti. La giusta misura è sempre buona in tutte le cose, e specialmente nella preparazione del mangiare. Gli estremi sono pericolosi, mentre le vie di mezzo sono buone. Ora, il giusto mezzo consiste nel non mancare mai delle cose necessarie. I desideri naturali, infatti, sono circoscritti nell'ambito di ciò che si può avere in maniera autosufficiente. Ai giudei, tramite la legge, è stata prescritta la frugalità, in maniera assolutamente conforme all'economia divina. Per tutti gli innumerevoli cibi di cui il pedagogo, per mezzo di Mosè, vietò l'uso, addusse anche i motivi della proibizione, lasciando nascosti i motivi spirituali e manifestando invece quelli carnali, ai quali in effetti i giudei credettero. Di certi animali vietò di nutrirsi, o perché non hanno l'unghia bipartita o perché non ruminano, e dei pesci vietò quelli che soli tra gli animali acquatici non hanno le squame. Rimangono così pochissime carni di cui i giudei possono cibarsi. Del resto, anche delle carni che permise, proibì quelle di animali morti da sé o offerti agli idoli o morti soffocati. Neppure queste è lecito toccare. È impossibile, infatti, avendo l'uso di cose piacenti, evitare la compiacenza verso di esse. Perciò il pedagogo stabilì come rimedio una norma contraria, fino a riuscire a troncare la corsa verso il piacere, alla quale l'abitudine ci ha indotti. Nella maggior parte dei casi gli uomini ricavano dal piacere danni e sofferenze, come pure il molto cibo genera nell'anima malessere e perdita di memoria e di intelligenza. Anche i corpi dei fanciulli in fase di crescita si sviluppano bene se l'alimentazione è contenuta. Così infatti non viene impedita la risalita dello spirito che contribuisce alla crescita. L'eccesso di cibo invece ostacola il flusso. Perciò anche Platone, quello tra i filosofi che con più zelo ricercò la verità, condanna una vita di mollezze e, riaccendendo la scintilla della filosofia ebraica, dice: «Quando arrivai in Sicilia non mi piacque affatto quella vita cosiddetta felice, tutta piena di banchetti italici e siracusani, una vita che consiste nel satollarsi due volte al giorno, nel non dormire mai da soli la notte e in tutte quelle abitudini che conseguono a una vita del genere. Da ciò nessuno tra gli uomini che sono sotto il cielo potrebbe mai ottenere saggezza, se da quando è giovane frequenta tali cose, né raggiungerà mai una natura eccelsa». A Platone, infatti, non era ignoto David. Questi, dopo che collocò l'arca santa nella sua città in mezzo alla tenda, dando gioia a tutto il popolo a lui soggetto, distribuì di fronte al Signore a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ciascuno, una frittella e una sfogliata fritta. Questo è cibo frugale, il cibo degli israeliti, mentre quello pagano è in eccesso. Chi ne mangia non potrà certo essere temperante, giacché seppellisce nel ventre il suo intelletto, assomigliando moltissimo a quel pesce chiamato asino, di cui Aristotele dice che unico tra gli animali ha il cuore nel ventre. È lo stesso che il comico Epicarpo chiama «dal ventre immenso». Proprio così sono infatti gli uomini che hanno riposto la loro fede nel ventre. Il ventre è il loro Dio e si gloriano della loro vergogna, gente che si cura solo di cose terrene. Nulla di buono predice ad essi l'Apostolo. La loro fine, dice, sarà la perdizione.